Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Liscia, morbida, vellutata, dorata, oppure secca, ruvida, macchiata, pruriginosa. Oggi, cari amici, intanto buongiorno da Nicoletta. Parliamo di pelle, di quella di chi è stato in vacanza e di quella di chi in vacanza non è proprio andato. In studio con noi la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. La dottoressa Serri per tutta l'estate ci ha accompagnato con i suoi consigli. Oggi è nostra a disposizione per insegnarci a prendere cura della nostra pelle, per mantenere i benefici dell'estate, per riparare qualche danno e per prevenire anche eventuali problemi che si ripresentano ogni anno in autunno, dalla testa ai piedi. 800 24 0024 se volete intervenire, 349 238 6666, siamo anche naturalmente su Facebook, teniamoci in contatto. L'estate sta finendo, è un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. L'estate sta finendo, cantavano i Righeira, è vero, siamo un po' così, ci stiamo preparando ad entrare nell'autunno e allora è arrivato il momento di fare una sorta di bilancio. Cosa tenere e cosa buttare di questa estate? Che cosa può essere capitato, dottoressa Serri, di buono alla nostra pelle durante l'estate? Beh, innanzitutto con ogni probabilità abbiamo migliorato il rapporto con la nostra pelle, col nostro corpo, perché grazie al clima più caldo siamo stati più nudi, più spogliati e forse sia mai che abbiamo imparato a volere bene alla nostra pelle, a curarla, a guardarla, a osservarla, a carezzarla, anche mettere il solare, mettere un olio sulla pelle è un modo per volere bene alla pelle. Questo è molto importante perché lei sa che i bambini poco accarezzati, è stato dimostrato, sono quelli che producono meno ormone della crescita e crescono meno. Quindi è molto importante accarezzare e coccolare la propria pelle sia da bambini ma sia anche negli adulti. Quindi questo è il primo lato positivo. La nudità porta a un'osservazione, l'osservazione porta a una maggiore attenzione. Certo, poi il colore della nostra pelle, che è più sano, ha perso quel bianco grigio, verdino, grigino, grigio verde invernale, soprattutto per le persone che vivono nelle grandi città, quindi abbiamo un colorito ancora più sano, più bello, più luminoso. Certo, la pelle è più secca, in alcuni casi alcuni dermatosi sono migliorate nei mesi estivi, mi riferisco alla dermatite seborroica, alla psoriasi, a certe forme di acne che si sono, tra virgolette, asciugate, comunque si sono disinfiammate e quindi vogliamo mantenere questi miglioramenti. Assolutamente, vogliamo anche porre rimedio ad eventuali piccoli problemi. Lei citava la pelle secca, molte ascoltatrici mi stanno scrivendo in questi giorni: sono abbronzata, sono ritornata dall'estate ma la pelle mi tira, la pelle prude, diventa... Sì, perché i raggi solari, tra le loro innumerevoli azioni, i raggi ultravioletti, hanno anche un'azione antinfiammatoria. Per cui smettere di colpo la nostra dose quotidiana di UV, cioè di raggi ultravioletti, cioè di raggi solari, può portare anche, oltre che a secchezza, anche a dei pruriti incredibili. È abbastanza tipico il prurito post solare che inizia circa una settimana dopo l'esposizione. E poi ci sono quelle piccole macchioline, macchie scure, macchie chiare, secchezza, rughette accentuate, di tutte e di più. Macchie, chiamiamole per come sono, senili, perché tendono a venire dopo una certa età, e felidi, che sono quelle macchie marroncine, chiamate anche lentiggini, ma in realtà non sono lentigo, sono proprio tipiche di chi ha la pelle chiaro, rossa e vengono sul viso, sul décolleté, sotto esposizione solare, sono molto simpatiche. A me piacciono. Anche a me. Forse 800 24 00 24, se l'estate vi ha reso belle, se l'estate invece vi ha lasciato oltre al colore, qualche piccolo problema. Noi siamo qui per insegnarvi a dare una soluzione. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, come dolce sognare abbracciato con te. Allora, dottoressa Serri, per chi in vacanza c'è andato e si è colorito, sicuramente l'abbronzatura rende più belli, come diceva lei, dà quell'idea di salute e tutti vogliono mantenere il più a lungo possibile la tintarella. Che cosa si può fare? Si fa qualche lampada? No, assolutamente no. Evitiamo le lampade, piuttosto cerchiamo di stare al sole, ai raggi ultravioletti, all'aria. Comunque gli UVA, che sono i raggi che producono la pigmentazione, ci sono anche quando il clima non è proprio estivo, passano attraverso le nuvole, per cui se ci mettiamo un po' spogliati al terrazzo, alla finestra, passeggiamo un po' spogliati al parco, ecco che è stimolata la produzione di melanina. Perché che cos'è l'abbronzatura? L'abbronzatura è dovuta a questi granuletti di melanina, di pigmento melanico, incapsulati nelle cellule della pelle. Bene, man mano che la pelle si rinnova e ci mette circa 4 settimane a rinnovarsi completamente, ecco che i granuletti se ne vanno via. Per cui è impossibile mantenere l'abbronzatura appiccicandosi col Vinaville la pelle ed evitando la desquamazione. Anzi, bisogna favorirla per mantenere la luminosità della pelle, perché più la pelle è spessa e più è opaca. Sento che molti dicono che è meglio non lavarsi perché fa andar via l'abbronzatura. È semplicemente assurdo, perché certamente si tengono come appiccicati lì queste lamelle corne, sì, però si favorisce anche l'opacità, l'asfissia stessa della pelle, per cui magari i granuli rimangono lì appiccicati, ma tu sei grigiastro, non hai quel bel colore luminoso. Per cui la cosa da fare, oltre che passeggiare alla luce, è lavarsi bene, pulirsi bene in modo delicato, nutrire bene la pelle, idratarla con oli di tipo vegetale e con emulsioni. Emulsioni vuol dire, sono le creme che possono essere più o meno grasse, più o meno ricche, ma emulsioni a base di oli vegetali, non a base di vaselina, di petrolati, di siliconi, che non sono dei veri nutrienti. E inoltre può essere molto utile ricorrere agli autoabbronzanti. Ne avevamo già parlato prima dell'estate. Certo, anche prima dell'estate, ma torniamo a parlarne ora. I principi attivi autoabbronzanti, in realtà, io stamattina ne ho messo per esempio uno, che sono il diidrossiacetone e l'eritrulosio, sono dei principi attivi ammessi anche dai disciplinari ecologici, per cui non sono assolutamente nocivi, anzi sono pure ecosostenibili per l'ambiente, derivano dagli zuccheri, non danno assolutamente una bronzatura ma una colorazione della pelle, danno questa specie di caramellazione della pelle, ed è meglio metterli di notte piuttosto che prima che andare alla luce. Quindi ci puliamo bene il viso. Si mette su un idratante e poi si può mettere un autoabbronzante. Sì, andiamo a dormire con l'autoabbronzante. I lettini che si fanno oggi, i lettini più moderni, sono lettini spray. I lettini che ti spruzzano addosso questo autoabbronzante. Total body nebulizzato in maniera omogenea. Lei ha già così sfatato un luogo comune, che è quello che i detergenti scoloriscono, no? Perché bisogna comunque continuare a lavarsi, per carità, però ce ne sono altre. Ad esempio, molti dicono: ma mi sbianco perché in ufficio c'è l'aria condizionata e bastano 2 giorni di ufficio e divento di nuovo grigiastra. È vero o no? Effettivamente l'aria condizionata, se non c'è una microclimatizzazione che consente una giusta umidificazione dell'ambiente, secca molto la pelle. Lo stesso succede in aereo. La secchezza porta a un aumento della desquamazione, per cui la pelle può essere più secca, più brutta, più opaca. è sufficiente nutrirla a sufficienza, lavarsi bene. Io suggerisco sempre di utilizzare, soprattutto in queste fasi in cui non si ricorre ancora a peeling o a sostanze sfoglianti come acido glicolico, oppure a peeling più anche fisici come il guanto di crina, il guanto di luffa, che sono un pochino troppo energici, io suggerisco l'uso del guantino o del pannetto di microfibra, che è estremamente utile, pulisce a fondo senza essere aggressivo, e ora si sta distribuendo bene anche nel nostro paese, nei supermarket, in farmacia, insomma un po' dappertutto. Veniamo al cloro dell'acqua delle piscine. È vero che smorza il colorito? Beh, certo, il cloro è uno sbiancante, ma più che smorzare il colorito, che è il meno, il cloro è proprio abbastanza dannoso e tossico. È molto opportuno dopo un bagno in piscina fare una bella doccia e non dimenticare di pulire bene anche le orecchie, cioè pulire con acqua dolce senza cloro anche le orecchie. Frutta e verdura di colore giallo e arancione, le leggo un altro degli altri, no, luoghi comuni, lei mi dovrà dire se è vero o falso. Fissano la bronzatura, aiutano a mantenerla più a lungo. Ah, che sintesi! Il colore arancione significa che è ricco di carotenoidi, quindi beta-carotene, licopene, luteina, e sono antiradicali liberi che certamente aiutano la pelle a affrontare meglio il sole, a abbronzarsi al meglio, non abbronzarsi di più. Per cui non è che fissino la bronzatura, aiutano però realmente la pelle. Quello che io suggerisco in questo periodo è l'uva. L'uva, che è ricchissima di sali minerali, di zuccheri giusti, è un detossicante, è ricca anche di principi attivi antiradicali liberi adatti alla stagione, e come sempre la natura ha perfettamente ragione, la frutta di stagione fa bene in aiuta quel momento. In quel momento. E sicuramente in linea con noi un'esperta che sarà d'accordo con quello che dottoressa Serri lei ha appena affermato, è la dottoressa Sara Farnetti, internista nutrizionista all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Farnetti. Buongiorno. È vero che la natura ci mette a disposizione? Assolutamente. Alimenti giusti al momento giusto. La stagionalità è uno dei criteri per farci del bene, quindi rispettare la stagionalità degli alimenti, sceglierli in quel momento in cui la natura ce li propone, appunto ci tutela, ci aiuta a stare bene, a non ammalarci per esempio, e in questo caso a proteggere la pelle proprio in un momento di transizione verso l'inverno, dalla stagione estiva in cui l'abbiamo sottoposta sicuramente a uno stress, perché quello del sole, come dice la collega, è sicuramente uno stress per la pelle. Dottoressa Farnetti, abbiamo la possibilità abbiamo un'ampia scelta a nostra disposizione, frutta, verdura, ma lei che cosa suggerisce? Su quali alimenti concentrarsi? Quali non dobbiamo far mancare sulla nostra tavola? Allora, sicuramente dobbiamo dotarci di uno scudo per proteggere la pelle da ciò che l'aggredisce, la fa invecchiare, che sono i radicali liberi, come si diceva. Allora, diamo una sintesi, inventiamo cinque tocchi magici per farci del bene. Allora, sicuramente, come diceva anche la domanda del nostro ascoltatore, è appunto quella di mangiare a colori. Mangiare a colori, quindi colorare sempre il nostro piatto del colore arancione, rosso, viola, bianco, verde, che significa appunto nutrirci tutti i giorni di alimenti che contengono, tra gli altri, la vitamina C, la vitamina A o il beta caroteni, in questo caso i carotenoidi, quindi diciamo il licopene del pomodoro, la zeaxantina, la luteina, la xastantina, sono tutte della famiglia dei carotenoidi, e poi la vitamina C. E quindi in questo modo noi appunto forniamo all'organismo quelle vitamine che proteggeranno la nostra pelle. Quindi colorare il piatto e profumare il piatto, oggi aggiungiamo. Profumarlo come? Con le erbe aromatiche. Le erbe aromatiche sono ricchissime di antiossidanti. Oggi misuriamo il potere antiossidante degli alimenti con questa unità che si chiama ORAC. L'ORAC è il contenuto di fenoli, indica il contenuto di fenoli. Per fare un esempio, il mirtillo, che è importante, lo conosciamo tutti, contiene 2500 ORAC. Se noi parliamo di salvia, rosmarino, timo, del cumino, che è una spezia indiana, siamo dai 45.000 ai 75.000 oracle, quindi proprio una scala diversa. Basta aggiungere un pugno di erba aromatica alle nostre insalate per aumentare di 3-4 volte il potere antiossidante di ciò che mangiamo. Quindi invito in questa stagione invernale che ha le porte, qui autunnale verrà l'inverno, ad aumentare il consumo di erbe aromatiche fresche, quindi intendo aggiungere 4 foglie di salvia a fine cottura, oppure le foglie di basilico adesso che si trova fresco, il prezzemolo, e perché no, magari usare la cannella quando mangiamo della ricotta. Queste erbe aromatiche aumentano il potere antiossidante del pasto, quindi ci proteggono dai radicali liberi, sono antietà, per aggiungere poi le proprietà antitumorali, appunto antibatteriche, antivirali, che ci saranno utili. Quindi, dottoressa Farnetti, non solo colore ma anche profumo. Profumo. E poi ricordiamo che dobbiamo colorare il piatto anche dell'olio extravergine, di quel verde intenso che ci fa sempre bene. Io, proprio perché si parla di pelle, potrei dire oil non oil, ossia quando aggiungiamo l'olio o aggiungiamo un grasso, non pensiamo che la pelle poi si ingrassi e la pelle diventi non bella, anzi in questo caso quest'olio è proprio utile alla pelle, sia perché c'è la vitamina E che è un antiossidante, un antiradicale libero, quindi un'antietà, sia perché l'olio è indispensabile per far funzionare bene il nostro corpo. Ricordiamo che quando la pelle è sana è uno specchio del fatto che i nostri organi sicuramente funzionano bene. Quindi il concetto di detossicare, di essere depurati, passa attraverso la funzione principalmente di fegato e rene, quindi eliminare i tossici, e il fegato fa questo attraverso la bile, e il rene lo fa attraverso appunto l'acqua, in questo caso l'urina. Se noi mangiamo grasso non pensiamo che il nostro fegato si affatichi, anzi quando aggiungiamo l'olio il nostro fegato lavora meglio perché riesce a far contrarre la colicisti e quindi a eliminare la bile nell'intestino, è un po' un motore, quindi mangiare olio extravergine d'oliva fa sì che il nostro fegato addirittura funzioni meglio, infatti mangiare olio extravergine d'oliva riduce il colesterolo, riduce la glicemia del nostro pasto, quindi importante depurare l'organismo uguale pelle sana e protetta, luminosa eccetera, e lo facciamo sempre attraverso ciò che mangiamo, non dimentichiamo quest'olio extravergine d'oliva, e poi perché no aggiungiamo alle nostre insalate, cominciamo a farlo perché il caldo finirà, sta per finire, i semi, perché i semi contengono vitamina E. Se mi intendo qualche mandorla, qualche pinolo, sempre non tostati, quindi certo, sempre crudi, e magari perché anche una fetta d'avocado che contiene la vitamina C. Dissetiamo la pelle, ricordiamocelo sempre, altro punto importante, non con l'acqua soltanto, perché l'acqua non è l'acqua di vegetazione di queste verdure sempre utili, ma di verdure crude. Ricordiamoci di aprire ogni pasto con un'insalatina cruda. Mescoliamo, aggiungiamo i semi, olio extravergine d'oliva ed erbe aromatiche. E voilà. Dottoressa Farnetti, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. A voi, buona giornata. Abbiamo molte telefonate, dottoressa Serdi, i nostri ascoltatori che vogliono avere dei consigli per prendersi cura della loro pelle, per prepararla all'autunno, per prevenire anche eventuali disturbi che in autunno si ripropongono. Abbiamo Angelo che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno Angelo, benvenuto. Buongiorno a voi tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Il mio problema è uno: io ho sempre avuto fortunatamente la pelle bella, non per vantaggi. Dircelo. Mi curo, sto in linea, ho smesso di fumare, bevo tanta acqua, mangio bene, le solite cose. C'è un problemino però, ultimamente da 2 anni si ripropone. Quando arriva l'autunno mi si arrossa il naso, mi si spaccano i capillari. È stata diagnosticata una rosacea, mi è stata consigliata una cura di vitamina A molto pesante per 2 mesi, io sono donatore sangue e avrei dovuto esentarmi per 1 anno e volevo qualche consiglio oltre a questa cura pesante dalla dottoressa. Grazie Angelo, allora Angelo si cura, ha smesso di fumare, una bella pelle. Questo piccolo problemino che si ripresenta con l'autunno. La rosacea. Ora, la rosacea oggi viene classificata non tanto come una malattia della pelle, ma proprio come una sindrome, dove i flash cutanei, i rossori, non sono altro che una manifestazione. Spesso si lega anche a cattiva digestione, assorbimento intestinale alterato, quindi bisogna valutare bene, sempre torniamo all'alimentazione, quello che si mangia, la digestione, bisogna cercare anche di valutare che cosa soprattutto scatena gli arrossamenti, che possono essere temporanei o definitivi. Temporanei, cioè ci si arrossa e poi la vampata va via, permanenti è quando il rossore rimane. Bisogna quindi fare una corretta anamnesi, valutare singolarmente la situazione della persona, e non dimentichiamo che la componente emotiva è piuttosto importante. Nella mia esperienza io ho notato, parlo proprio di esperienza di quindi, clinica, non sì. psicologica, ho notato che molto spesso alla rosacea si lega una forma di repressione, cioè qualcuno che ha represso qualche cosa nel corso della sua vita o della sua infanzia, o che gli è stata repressa qualche attitudine, qualche cosa che è piaciuto e che e poi si può manifestare. Perché c'è spesso una repressione di una qualche cosa, per cui bisogna parlare un attimino tra sé e sé. Per quanto riguarda la cura della pelle, teniamo presente che la pelle con rosacea è una pelle sensibilissima ma seborroica, grassa, per cui non è una pelle che va ipernutrita. L'uso di petrolati, cioè di vaselina, olio di vaselina, peggiora la situazione. La cute va detersa bene con detergenti a risciacquo e sciacquata con acqua, oppure con acque micellari detergenti poi sciacquate con acqua. I migliori idratanti sono paradossalmente o quelli acqua in olio usati in uno zic, vuol dire quelli più grassi che non bruciano la pelle, usati in piccolissima quantità è meglio se gli oli sono vegetali e se contengono anche un pochino di ossido di zinco, che ha un'azione lenitiva e ha un'azione antiarrossante, oppure i gel privi di oli, i cosiddetti geli, che è a base di aloe di acido ialuronico, e vanno molto bene. I primi tempi magari ci si sente la pelle tirare, ma è una reazione normale e bisogna riequilibrare la pelle, non ipernutrirla. Essere e benessere. Rugosa, rugosa, piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice. Buongiorno signora, ha un aspetto meraviglioso stamani. Ehi, un momento, non stai dimenticando qualcosa? Beh, oggi è solo giovedì, lei mi lascia dirle che... Io ho bisogno di sentirtelo dire tutte le mattine. Molto bene. Oh, madame, lei sembra più giovane ogni mattina. Grazie, Rosa, ti sono veramente grata. Dio, è incredibile, guarda che freschezza. Ma quanti anni ha? 50. 50? Ci sta prendendo in giro. Darei chissà che per sapere qual è il suo segreto. Ma ditemi un po' la verità. In questi giorni, quando vi guardate allo specchio, vi sembrate più giovani, più in forma, più distesi? La vostra pelle vi piace? 800 24 00 24. Io vorrei che la dottoressa Serri ci insegnasse a proteggerla, nutrirle, coccolarle, perché dobbiamo darle tutto di quello di cui ha bisogno. Ne abbiamo una sola, parliamo attraverso la pelle, dobbiamo soprattutto imparare a stare bene nella nostra pelle, questo è il vero benessere, sì. E dobbiamo imparare ad ascoltarla ed essere attenti, ma non troppo critici. Dottoressa Serri, brava, perché Nicoletta, dalla pelle noi chiediamo critici. Tanto, non perché vogliamo... Soprattutto noi chiediamo quella perfezione che non è umana, noi chiediamo l'effetto Photoshop alla pelle. La pelle umana è imperfetta e non sarà mai perfetta, e se la nostra meta, il nostro goal è quello di raggiungere una pelle perfetta, prepariamoci a una vita frustrata, a un tentativo che non riuscirà mai. Per cui dobbiamo volere bene alla nostra pelle, a noi stessi, a prescindere dalla sua presunta perfezione e a prescindere dal suo somigliare a parametri di bellezza che rientrano nella moda attuale e che ha completamente messo da parte, allontanato la bellezza dell'individualità. Cioè ormai l'omologazione ha sostituito il fascino, lo charme di essere se stessi. Insomma, essere se stessi è la più grossa, secondo me, fonte di fascino, e certamente se ci sono dei difetti, delle imperfezioni, ma reali, non presunte, o non perché non assomigli al tal personaggio televisivo o alla tal modella, reali, aiutiamo a correggerle. Oggi io vedo tante facce uguali. Se lei prende le attrici di un tempo, le modelle, se le ricorda una per una anche per le loro imperfezioni. Certo. Oggi tendono talmente tutte ad assomigliarsi, a essere fatte proprio con lo stampino, aver tutti gli stessi zigomi, lo stesso naso, gli stessi occhi, la stessa fronte a tangenziale, le stesse bocche, che è anche inquietante. Invece siete dobbiamo d'accordo? Riscoprire il nostro fascino. Siete d'accordo? Vogliamo riscoprire insieme il fascino di prendersi anche cura della di se stessi, accettandosi? Ma più che accettandosi, che implica una connotazione negativa, proprio piacendosi e dicendo io sono così. È difficile, ma la vita è dura, bisogna imparare a poco anche a piacersi e ad amarsi. Come siete, adesso che stiamo parlando di pelle, concentratevi su di lei, provate ad ascoltarla, osservatela. Sicuramente dopo l'esposizione al sole molti di noi avranno notato delle macchie. Alcune di queste possono essere trattate, vi diremo come, ma intanto voglio sentire Fausto che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Fausto. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la vostra trasmissione, vi ascolto sempre con molto interesse. Grazie. Volevo chiedere, allora, a parte che, come diceva prima, l'abbronzatura ci fa essere tutti più belli. Lei si sente più bello, Mauro? E tu, Fausto. Ci sentiamo più belli tutti, sì, adesso quando ci guardiamo allo specchio, effettivamente. Però, a parte questo, io ho 52 anni e da un paio d'anni a questa parte che in viso ogni tanto mi compaiono delle macchie scure. Ad esempio alcune sono anche in rilievo, tant'è che una ad esempio me la sono tolta proprio a forza di, con l'unghia, a forza di passarci sopra l'unghia, insomma mi è venuta via questa macchia. Però volevo capire, queste macchie che sono dovute forse all'età, mi dicevano, sì, ma si possono trattare in qualche modo? Sì, forse modo l'unghia, forse Fausto, l'unghia proprio non è proprio il massimo. Noi abbiamo detto fino adesso, coccoliamola, nutriamola, accarezziamola. Fausto dice, io avevo una macchia, me la sono che arriva il la coppia cromosomica XY, cioè il maschio che comunque per quanto un pochino vanesio, sempre maschio è, e si toglie le lesioni con l'unghia. Laddove non è che sia pericoloso togliere con l'unghia, certamente non è molto igienico e forse la riuscita non è delle migliori. Che si fa allora? Allora, mi fa sorridere il fatto che oggi ci abbiano già chiamato due maschietti, che cominciano a essere più attenti. Si fa, queste macchie possono essere o lentigo, cosiddette solari o senili, cioè senili lo dico così in fretta, perché effettivamente vengono dopo una certa età nelle zone più esposte ai raggi ultravioletti, quindi viso, décolleté, avambracci. E si possono eliminare con laser, chiaramente o con radiofrequenze iperpulsate o con altre luci pulsate, in periodi non di sole, quindi da adesso, novembre in poi. Ecco, adesso che siamo ancora abbronzati, non facciamo questo trattamento. È meglio di no, non tanto perché siamo abbronzati, quanto perché c'è ancora luce nell'aria, per cui, in giro, insomma. E saremmo poi costretti a applicare una protezione solare 50 più costantemente, quindi un po' una schiavitù. Invece le chiazze cosiddette scure in rilievo con ogni probabilità sono cheratosi seborroiche, che si chiamano così, cheratosi o verruche seborroiche, anche se non sono né verruche virali né legate alla seborrea, e possono crescere. Queste anch'esse si possono togliere in diversi modi, occorre andare dal dermatologo che le asporta con enorme facilità. Vengono anche spesso sulla schiena. Uno dice non le ho mai avute, rispondo sempre meno male, non si nasce con tutto, le cose vengono nel corso degli anni. Felicita da Bergamo, buongiorno. Buongiorno dottoressa Serri. Volevo sottoporre questo quesito. Premesso che ho una storia di acne giovanile che si trascina con fasi alterne e che negli ultimi anni ho curato con una crema neostrata al 10% applicata tutte le sere. Adesso non so se è complice la premenopausa, che ho notato un incremento di seborrea enorme e adesso al ritorno dal mare ho proprio una pelle piena di puntini bianchi sul viso, anche le guance che erano diciamo indenni precedentemente da questo problema. E ho trovato a livello di farmacia un prodotto che era eratolitico che mi sta appunto facendo esfoliare la pelle pian piano, diciamo la spurga da queste sostanze. Chiedevo un consiglio sul certo, dottoressa Serri, il Felicita racconta una storia molto comune, una tante persone comune dopo l'estate si ritrovano e a fare i conti. Sì, perché il caldo umido può peggiorare la situazione della seborrea e spesso anche i solari stessi che si usano possono peggiorare e dare luogo alla formazione di quelle microcisti cheratiniche che lamenta la signora. Va benissimo il prodotto esfoliante, che non deve essere troppo aggressivo se si trova bene. Tornando a quello che dicevo all'inizio, una buona detersione mattino e sera è indispensabile, perché io trovo abbastanza buffa il lavarsi in maniera delicatissima tutti i giorni per poi fare uno scrub, un peeling, una detersione aggressiva una volta alla settimana. Quindi buona detersione anche col pannetto, con una spugnetta mattino e sera, e applicazione di prodotti adatti al proprio tipo di pelle. Gli esfolianti possono essere usati per un paio di mesi e poi vedere come va. Meglio non usarli continuativamente. Certamente quando parla di esfolianti cheratolitici parla di alfa idrossiacidi, di acido salicilico, di acido piruvico, acido glicolico, che vanno molto bene perché sfogliano, ma vanno esfogliano in bassa concentrazione. Il glicolico è anche idratante, per cui può andare molto bene, bisogna solo stare attenti a tollerarlo. Ecco, non esistono creme universali che vanno bene a tutti, per cui ognuno deve studiare la propria personale situazione, valutare come sopporta certi prodotti e sapere anche di non esagerare mai con la quantità di prodotti, perché le cure cosmetiche della pelle sono un po' come il nutrimento per il corpo, cioè il troppo stroppia. Essere e benessere. E noi veloci siamo di nuovo qua, ma soprattutto in linea con noi abbiamo Lorella Cuccarini. Ciao Lorella. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, come stai? Noi stiamo bene, siamo pronti per una ripresa proprio di quelle belle, sì, sai? Abbiamo riacceso tutti i motori. Siamo a posto. Senti, io ho parlato spesso del libro che tu hai scritto con Io ti ho sentito, guarda, io sono una radioascoltatrice frequente di Radio 24, soprattutto la mattina in macchina, quindi proprio sei una mia compagna di viaggio. Questo mi piace. Allora sì, entra. Comincio con Milan la mattina, insomma faccio tutto il percorso, capito? Dipende da quanto mi devo spostare. Senti Lorella, allora diventa, dato che fai parte anche tu della tribù di Essere Benessere, dacci dei consigli, perché i nostri ascoltatori spesso diventano i nostri coach. Ciascuno di noi può dare quel consiglio, suggerire quell'attenzione particolare. Brava. Soprattutto per l'esperienza che si fa nel corso degli anni. Io prima di tutto credo che noi dobbiamo tutti ringraziare, no, i nostri genitori, perché poi molto, diciamo, della bellezza del mantenimento della pelle dipende anche dalla familiarità. Insomma, io ricordo ancora la pelle di mia nonna, superati gli 80 anni, era una pelle che faceva invidia alle ragazze, sì, perché era una pelle bella anche se rugosa, ma insomma una pelle ancora tonica, no, ancora luminosa, ecco. Quindi sicuramente buona parte della buona riuscita, diciamo, della nostra pelle dipende da quello. E poi dobbiamo volerci bene noi, per cui insomma, sai, dal mio punto di vista, per esempio adesso dopo l'estate sono leggermente abbronzata, ma poco, perché io per esempio di sole ne prendo poco, prendo quello migliore, cerco di usare delle protezioni abbastanza alte, perché poi essendo una pelle molto chiara, adesso per esempio ho notato subito dopo le gravidanze che rischia, no, di cominciare a macchiarsi, quindi sì, è sempre meglio prendere meno sole, bere molta acqua, mangiare bene, insomma abbiamo appunto, ne hai parlato già tu, no, del libro A tavola non si invecchia, antiossidanti, quindi proprio combattiamo i radicali liberi. Senti, a tavola non si invecchia come insegnate nel vostro libro, ma Lorella, davanti allo specchio tu che cosa fai, di quali attenzioni dedichi alla tua pelle? Usi sempre la stessa crema? Hai particolare cura nella detersione? Ecco, guarda, io ho una particolare cura e attenzione soprattutto nella pulizia, perché sono molto d'accordo con quello che diceva poco fa la dottoressa, cioè il fatto che fare troppo per la pelle a volte può essere sbagliato, no? Sì. Per esempio io nella detersione uso buoni prodotti, cerco di pulirla sempre, però non la aggredisco con troppe cose. Quando trovo dei prodotti con i quali mi trovo bene, cerco di andare avanti. Però per esempio per il mio lavoro capita a volte di rimanere truccati anche fino a tardi, di arrivare tardi a casa, quindi a volte sì. essere anche un po' stanchi, no? Certo. Di non avere voglia. Ecco, io anche se arrivo alle 4 del mattino dopo uno spettacolo teatrale, dedico comunque i miei 5-10 minuti alla pulizia del viso, perché credo che sia fondamentale. Soprattutto, ecco, poi per una persona come me che spesso, per esempio quando lavori a teatro devi truccarti tutti i giorni, sì. spesso poi il dopo teatro ti fa fare anche orari, per cui quindi insomma, ti risparmi la pelle, poi veramente non ti ringrazia più. Lorella, dobbiamo proprio convincerci, questo lo dico naturalmente per noi donne, vinciamo la pigrizia alla sera, anche se ci sentiamo stanche, non vediamo insomma, l'ora di andare sì, a letto, ma dobbiamo farlo proprio per noi, perché la pelle purtroppo il giorno dopo già vedi che ne soffre, perché quotidianamente se non la manteniamo fresca, se i pori non sono puliti, se non la nutriamo e non ce ne prendiamo cura, quando abbiamo 25-30 anni non ce ne occupiamo, ma insomma poi quando comincia ad arrivare qualche annetto in più, anche sì. se siamo sempre delle giovanissime ragazze, certo. però, potremmo cominciare a pagarne i conti, ecco. Grazie a Lorella Cuccarini per essere stata grazie con noi. Buona Lorella giornata. Ti aspettiamo, buona giornata a te. Se qualcosa del mio aspetto fisico che desse fastidio a Carla, io sarei felicissimo di correggerla. Capisci? Probabilmente migliorerebbe il nostro rapporto. Odio il tuo cosa? Nero. Cosa? Piccola, dicevi che era il tuo bottoncino, tu mi hai fatto tagliare i baffi. Era prima di vedere cosa c'era sotto. Ok, vengo al punto. Se lei dice a Carla che il neo non si può operare, io le do $10,000. Turk, non voglio che tu lo faccia. Non si può operare. Ritiro. E adesso è tempo in chiusura di parlare di Ney, non potevamo dimenticarcene, sono arrivati tanti messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che mi stanno chiedendo ma allora il neo mi si è modificato, è nato un nuovo neo, che cosa fare? Noi abbiamo in linea il professor Giuseppe Monfreco, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, il sole che abbiamo preso quest'estate può aver fatto nascere o aver modificato qualche neo? Perché io devo dirle che quest'estate in spiaggia ho visto delle persone con la crema solare, dottoressa Serri, distribuita a pois. Cioè vedevo delle persone che avevano dei... ma ne ho vista più di una. Prima non capivo e poi con più attenzione ho capito che cercavano di coprirsi i nei. Ma questa è nuova però, professor Monfrecola. Eh sì, guardi, allora per ciò che riguarda la crema applicata sui nei, diciamolo con tutta franchezza, è del tutto inutile mettere la crema solare solo sui nei, è una anche pratica brutta, che non si sa da dove sia nata e che comunque tutti quanti per imitazione fanno, questo per vari motivi. Innanzitutto la fotoprotezione va fatta su tutto il corpo e quindi mi sembra veramente superfluo ribadirlo, e comunque teniamo presente anche che i melanomi si sviluppano anche da cute normale, cioè non necessariamente da un neo preesistente. Quindi questa pratica è assolutamente da bandire. Le mamme che mettono la crema sui nei dei figli farebbero bene a metterla su tutta la cute dei bambini. Per quanto riguarda poi l'azione dei raggi solari, cioè che cosa possono fare i raggi solari durante l'estate ad alcuni nei preesistenti, beh, alcune volte possono far accentuare il colore di alcuni nei, ma questi cambiamenti non sono da ritenersi pericolosi, quindi gettiamo un po' d'acqua sul fuoco, non necessariamente un neo che diventa appena appena un po' più bruno d'estate sia, dobbiamo ritenere, sia diventato pericoloso, e questo è legato al fatto che il neo è composto da cellule che sono i melanociti, quindi attivati dalla luce solare tendono a produrre un pochino più di quella, una sorta di reticolo che noi dermatologi vediamo quando usiamo uno strumento particolare. Attenzione però poi a non confondere i nei con le lentiggini, che sono altra cosa. Noi certo. sulle spalle possiamo vedere diventare più evidenti delle macchioline, molto spesso numerosissime sulla parte alta del tronco, sul dorso, soprattutto si tratta di manifestazioni legate alla esposizione cronica ai raggi solari, sì, quindi vengono fuori quindi... nel corso della vita e quindi vengono confuse a volte con dei nei. Allora, professore, ho bisogno di farle una batteria di domande, che così raccolgo un po' i quesiti degli ascoltatori. Un nuovo neo che è spuntato così, deve essere controllato sempre oppure no? Allora, dipende, perché vede, tutta la nostra vita noi possiamo sviluppare una serie di nei per sì. motivi genetici, a volte anche per fotoesposizioni avute dai bambini. Ora, la nascita di un nuovo neo, tranquilli, non necessariamente significa stiamo avendo un melanoma. Certo. Però quando farci vedere dal medico, quando c'è, diciamo, un qualche cosa che è insorto improvvisamente, che si sta anche ingrandendo con una certa rapidità. Quindi tutto questo deve indurci a fare una cosa, quello che tutti quanti sanno, l'autoesame. Ci si mette davanti allo specchio con una forte, buona illuminazione e ci si comincia a guardare. Questo neo non lo avevo prima, sì. Ecco, da quanto tempo l'ho notato? L'ho notato, non so, da un mese, in un mese, due mesi, è diventato rapidamente più grande. Allora qui comincia quella regola che tutti conosciamo, ABCD, ed è, lo ricordiamo un attimo, A, asimmetria, quindi un neo che non è rotondeggiante o ovalare, B come bordi irregolari, C, colore non omogeneo, di dimensioni, ecco, rapidamente c'è stato una dimensione che è arrivata a 5 mm, superiore ai 5 mm, e poi soprattutto il criterio evolutivo che stiamo appena dicendo. Se si modifica rapidamente. Dottoressa Serri, ma se intorno al neo la pelle si arrossa e prude, mi preoccupo o tiro avanti? Beh, direi più che preoccuparmi, controllo e magari se proprio non so cosa fare vado a consigliarmi col mio dermatologo. Professor Monfregola, mi sembra di fare l'interrogazione, in rilievo o piano, fa differenza? Ma guardi, queste caratteristiche sono importanti in quale maniera? Bisogna vedere l'aspetto generale del neo, non è soltanto questo. In altre parole, abbiamo detto poc'anzi, forma, bordi e colore. Allora, il melanoma, mettiamoci un attimo nelle ipotesi estreme, il melanoma cresce dapprima in superficie, noi diciamo in senso radiale, cioè si espande in senso orizzontale, poi diventa nodulare, cioè rilevato. Allora, è importante conoscere la tempistica dell'evoluzione. Perché? Perché un neo che cresce non necessariamente è un melanoma, ma un neo che cresce rapidamente prima in orizzontale e poi comincia a diventare palpabile, diciamo, certo. Cioè un po' in rilievo, ma l'ha fatto in poco tempo, ecco, è un neo sospetto. Esatto. Professor Monfregola, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie. A presto. Dottoressa Serri, concludendo. Concludendo. Prepariamoci a affrontare questo autunno, questa chiusura d'estate con gioia, osservando la nostra pelle, curandola al meglio. Se proprio non riusciamo a lavarci alla sera, bene, prendete una bella confezione di acqua detergente micellare, acqua detergente struccante, tenetela sul comodino insieme a del cotone idrofilo e quando siete a letto pulitevi il viso. Almeno questo si può fare, anche i pigri e le pigre possono farlo. E poi a proposito dell'alimentazione, sono abbastanza fortunata perché io sono ghiotta di cibi sani, freschi, eccetera. Però l'alimentazione sana può essere anche deliziosa, e ci tengo a dire che la dermatologa cuoca del libro A tavola non si invecchia, la Pucci Romano cucina in una maniera, in più è dermatologa, una cena con lei è un'esperienza mistica, per cui si può mangiare sano, bene, in maniera molto goduriosa e in maniera luminosa per la pelle. Grazie alla dottoressa Serri, a voi che siete intervenuti, a domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere. We'll be right back.